Il leone e il topo. C'era una volta un leone che regnava nella foresta. Un giorno, dopo aver mangiato il suo pasto, il leone si addormentò sotto un albero. Un topolino lo vide e pensò che sarebbe stato divertente giocare su di lui. Si mise a correre su e giù sul leone mentre egli dormiva. Correva e si divertiva andando su e giù sulla coda del leone. Il leone si svegliò furioso e con un forte ruggito afferrò il topo con la sua enorme zampa. Il topo lottò per liberarsi, ma non riuscì a fuggire. Il leone aprì le sue grandi fauci per inghiottirlo. Il topo era molto spaventato. Oh, mio re, ho tanta paura, per favore non mi mangiare. Perdonami, non lo farò più. Ti prego, lasciami andare. Non dimenticherò mai il tuo gesto e forse un giorno ti potrò aiutare. Il leone era così sorpreso dall'idea che il topo sarebbe stato in grado di aiutarlo che aprì la sua zampa e lo lasciò andare. Grazie, mio re. Non dimenticherò mai la tua gentilezza. Sei fortunato, topolino, che io sia sazio. Ho appena mangiato. Va, ricorda che con me non si scherza o sarà il mio prossimo pasto. Pochi giorni dopo, il leone girava per la giungla. Nel frattempo dei cacciatori preparavano una trappola per poterlo catturare. I cacciatori si nascosero dietro un albero in attesa che il leone si avvicinasse alla trappola. I cacciatori tirarono le corde e riuscirono a catturarlo. Il leone iniziò a ruggire e tentò di liberarsi dalla trappola, ma i cacciatori lo legarono stretto. I cacciatori tornarono al villaggio per prendere una gabbia, così da poter trasportare il leone. Tutti gli animali ed anche il topolino sentirono il suo ruggito. È in difficoltà! Devo restituirgli il favore! Il topo raggiunse il leone. Non ti preoccupare, mio re! Sono qui per liberarti! Il topo salì in cima alla rete e grazie ai suoi dentini aguzzi iniziò a mordere le corde. Il topo riuscì a liberare il leone dalla trappola. Il leone si rese conto che anche un topolino può essere di grande aiuto. Grazie, amico mio. Non ti darò più fastidio. Puoi vivere felice nella mia foresta. Hai salvato la vita del tuo re. Ora sei tu il principe di questa foresta. Grazie, re. Allora ciao, a presto. Ah, dove stai andando? Non vuoi giocare con me e scivolare lungo la mia coda? Il topo iniziò a saltare sulla schiena del leone e scivolare giù lungo la coda. Un attimo dopo, i cacciatori tornarono con una grande gabbia per trasportare il leone. Il leone e il topo li videro e cominciarono a correre verso di loro. Il leone con il suo ruggito fece fuggire i cacciatori terrorizzati che tornarono al villaggio. Il leone e il topo diventarono grandi amici per sempre.